causati dall'uomo piuttosto che pochi incidenti causati da delle macchine. Inoltre, per le ragioni appena citate, queste macchine, queste self-driving car, sarebbero tenute a rispettare in modo assolutamente fiscale le regole del traffico, ciò che manderebbe in bestia qualunque automobilista del pianeta, non parliamo se italiano. Insomma, la strada da fare, in senso non solo metaforico, è ancora molta, eppure sembra che sia anche una strada segnata. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento al prossimo speciale. Tra una settimana partiremo dalla COP21 di Parigi per parlare del futuro dell'energia e del petrolio. Da Maurizio Melis, buona serata e ancora buone feste.